canale 10 K. Attenzione canale 10 K. Canale binario 10K. Hola. Attenzione 10. Hola. Ciao Antonio, buongiorno. Oh, ciao già, buongiorno. E allora, com'è? Bene. E tu? Sto a posto. Sì, dai. Un colpo alla botte e un colpo alla canarello, come si dice, dai. Piano piano, va. L'MLM, muro. Aspetta che sto facendo una telefonata. 2 secondi. Vediamo un po' se mi risponde. Vai tranquillo. Gianni, ci sei ancora? Eccomi. Kappa, dai. Eccomi qua, sono ritornato. Finito la telefonata. Bene meda. Io. Dimmi tu, come mi ascolti con l'Uranus, col microfono normale? Benissimo. Non è troppo amplificato, vero? È normale, classica, giusto? Ma normale, no. Non troppo amplificata, va bene. E a me come mi senti? A bomba? Una bombetta come sempre, dai. Gappa. Se non mi intendi per tu. Vabbè, uno è qualcosa di stazionario, ciò. Cioè, è una penna pigliata, due passamane. Eia. Oh, il mio strumentino neanche si muove, ragazzi. È proprio fisso sull'uno, neanche si sposta, dai. Quindi proprio stazionarie. Poi vabbè, se salgo dopo il 20 piano piano, ma veramente poca roba, neanche 1 e 2, figurati. Ma lo so, quadrato di 4 watt, no? Già ho capito, no? Io ti sto dicendo la mia situazione attuale. Gappa. Io non sto utilizzando 4 watt, molto di più. Capito. È una sostituta stazionaria, non ce n'è. Meglio così. Gappa. Ma ha piovuto stanotte, ho visto c'è la strada tricia. Stamattina? Non me ne sono capizzato. C'avevo per tappare le tute abbassate, quindi non mi sono accorto di nulla, dai. Hai avuto la posizione in doia, guai. Dai, compra un po' di metri di cavo, Antu. Li facciamo passare sugli alberi, in corso Vico, e mettiamo l'antenna qua. E va che ti fate 2 ieri di smettere a te. Tipo centrifuga lavatrice, così è. No, che ti rovina la radio, ti incolla tutto. Era una buttata, mi. Cappa, ma stai scherzando. Già va bene, Antu. Se riesci a tirarla su di qualche metro con un bel palo, sicuramente guadagni qualcosa, dai. No, rimane così e basta, l'ho già tirata su. Rimane così e poi c'ho un motivo mio, che quando tu antenna c'ha meno cavo c'hai più e più spinge. Chiaro che sì, quello è senza dubbio un vantaggio, dai. Avere meno capo, e anche io non è che ne ho tantissimo, vabbè, fare tutto il giro della camera qua, ma non è tantissimo. La radio è già vicino, è molto vicino alla finestra, quindi il capo è veramente poco. Ma io uso RG58, io uso H155. Immagino, no, io ho le RG58 e tanto per quello. Per come sono messo va più che bene, poi magari in futuro metterò qualcosa di meglio, però per adesso va più che bene, Antu. No, questa è un'altra storia. Me ne devo prendere qualche metro, me ne devo comprare, devo tenere qua. Se decido di mettermi qualche cosa più performante, me ne serve di più. Certo. Che colore è il tuo cavo, grigio o nero, Antu? No, è quello nero. È quello che assomiglia al grigio. Ho capito. No, perché ho visto ci sono anche diversi colori, c'è bianco, grigio e nero. Per cui magari se deve scendere in facciata meglio non mettere un colore troppo vistoso, dai. No, questo è nero. H155, quello col, col coso rigido dentro, quello robusto, nel centrale, non è come il R58. Ho capito, lo conosco. Uia, beh, Antonio, io vado a... vado a caricare un po' le batterie, dai, magari ci sentiamo più tardi, ok? Buon pranzo, nel caso, ci aggiorniamo più tardi. Ciao ciao. Ciao, ci sentiamo. Ciao. Hola. Minima, la massima vai a 9,25. fatto il conto, sono 15 dB. Cava, cava. Poi da 9,25, quando agganci vai a 9,35. Oh già, fai la prova con la portante schiacciata. Metti da minimo, sempre con la portante schiacciata, e poi metti a massimo. Così al minimo e così al massimo. Guarda, si vede. Si nota oggi, eh? Sì, da 7 sale a 9 qualcosa, 9,5. Fate il conto, ma io siccome quella radio la conosco, prima di lui, è impossibile che dia 30 watt a potenza alta. È impossibile, guarda, è impossibile, a me me ne dava 80 a potenza alta. E a ci vedi già, la mappa è varia. Non fai nascere altro, è una bestia quella radio. È una bestiolina quella radio, non ha bisogno di allineare questa radio. È una bestia, bella esteticamente ed è una bestia. Ha una potenza allucinante, un SSB da quasi 200 watt con la radio. Vale, ma era poco in massa. Quello era la cosa bella che dovevi fare, perché? Perché c'hai potenza minima, potenza alta, ma già, infatti veramente, provato con lo strumento professionale ad hoc con la radio in AM, da poco più di 15 watt in banda, in cosa bassa, qui c'è picchi di modulazione, potenza, potenza alta, mi dava quasi 100 watt in AM, con, sul parlato, quasi 100 watt. Qua non li dà, la 30 al massimo. Sai perché non li dà? No. Sempre il solito discorso, che a te piaccia o non piaccia, sempre il stesso discorso, perdita di watt sul cavo, lunghezza di cavo, capito? Connettori, rosmetro, wattimetro, accordatore, spezzoni, se tu quella radio la metti in diretta, radio lineare, io ti posso dire che dai 80 watt in AM. Ma scusa, l'avrebbe fatto anche con le altre radio, il garage mi dava un watt di giusto, le altre radio una è da 3 di watt e l'altra è da 5, e sono tutte giuste, il Royce ne da 8, e sono tutte giuste le altre potenze, e questa qua so che deve essere sbagliata, se fosse stata sarebbe stato per tutte le radio, no? Visto considerato che io uno spezzone lo uso per tutte le radio, quindi è uguale. Non c'entra niente già, non c'entra niente, sto parlando di quella radio. Quella radio non sta dissipando, c'è qualcosa, qualche perdita da qualche parte. Guarda, non ho più le foto che avevamo fatto con Massimiliano e ti dico che quella radio a casa mia, Carbonazzi, dava 80 watt in AM, potenza alta 15, 10, 12 watt modulati con la potenza minima, misurato col, c'avevo la T230 della Kenwood, capito, rosmetro, wattimetro, accordatore, commutatore d'antenna, attaccato a quello, era una cosa impressionante, in banda laterale, in USB a 28 e 400 mi ha dato, mi dava intorno ai 160 watt DEP, a me, capito, a me, e lì non lo so perché non li dà, però quella radio se tu vai a guardare il manuale di istruzioni, il manual service, te lo dice, 80 watt in AM deve avere quella radio. Andrò a vedere comunque, là, mi ha messo la curiosità. Andiamo, andiamo, ciao, Marcellaro. Come mai sei entrato? Come mai? Sei entrato, io giro la festa tua. Sono pari, è entrato già, mi sono lavato, sono messo il camion che devo uscire. Ma dove sei? La scopa? Ah, perché c'era la scopa, devo andare a Olbia. A prendere di nuovo la fila di cosa, diciamo? No, ma perché c'era la scopa? Ah, ho capito. L'aeroporto, no? Avanti, Claudio. No, che a me vuoi in culo la scopa. Se no, lui va a dire qui dentro l'ultimo. Allora, se no perché c'è mano che è un giardino. Rumba da Romurgia, davvero Mattesci. Genio. Venga, sono qua, sono qua. Ma se va per il bene, mi preso in boccaccione, Antonio. Abba. Un genio, come arriva a Porto Torres? Come sempre, come sempre. Gappa gappa, vai. Sono già dall'altro, almeno che non cambi il radio, usano i gioco. Sono Giuseppe tutti uguali. Ho cambiato il radio. ma non è cambiato niente come segnale modulazione, è uguale. Ma cosa ne so voi? Ma c'è la tanto bomba di salvare il Brian, non c'è rifletta ai segnali. Cappa. No, adesso sto fanno, adesso per vedere un po' se va bene la radio, perché la devo provare questa radio, perché mi dava un difetto. No, va bene, sei quasi sul più del 30, è radio 5. Ah, vai. Sì, 4:30 è così, 19 più 20, poi più 30, più 40, più fondo scala, non è più, sempre un più fredda, anzi, sì, sul più del 30 adesso, può fare sul 20. Entria. Penso che pure un buon vendi, eh. Già la conosci con la radio, quindi guarda, c'è 9 più 20, poi dopo 20 c'è più 40, poi più fondo scala 60, quindi tu sei sul più dopo il 20. Mi fa 69, ma è un pende poco, ragazzi. Ho compreso una cosa, ma lo fa a me o lo fa anche a voi? Quando vi fate la doccia vi passa la voglia di dormire, cioè, poi farò stanco, avevo voglia di riposarmi, ma ho fatto la doccia, boh, mi è passata la voglia di coricarmi. La roccia calda? La roccia calata. Se la fai più fredda ti viene allo giorno, ti viene i brividi di freddo, e la roccia calda ti fa, capito? Ti fa riprendere subito, ti viene subito il mangaglio duro. Magari, oggi con te la prima faccio i mattonelli. Comunque, manco d'estate la faccio fredda, la faccio tiepida. Ciao amico mio importatore, se basso basso ti sento oggi. Ciao Chico, amico mio di Sassa, direi cosa vuoi ti voi. Così siamo, boh. Ah, ti hai ascoltato meglio adesso, va? Avanti Gianni, il doppio e poi il rum. Hai visto la foto che ti ho mandato, eh? Ogni figazzaccio di sessantenne. Ma a me stai dicendo tu? Quella foto che ti ho mandato, il ripeto di lato, qualcosa che ti dà un po' di caldo, quel cappottino, quello che ha un po' di caldo, quello, no? Ah, non ci ho fatto caso, non l'ho vista. Ti ho mandato su WhatsApp, cazzo, ho scritto doppio rum, ma non ci ho fatto caso. Aspettate un attimo che vado a bere io, se prendi tanto. Capo, io sto scendendo, la pimina in bagno, ci sentiamo dopo. Ah, a scherreggia lo mangagliucla. Permesso, permesso. Avanti già. Si dice per Messico, non permesso, per Messico. Ciao Luca, buonasera. Ciao genio, e allora? Allora, com'è un in giro? Buonasera. Ciao Gianni e poi Rubrofetta, buonasera anche a te. Buonasera a tutti. No, allora del giro, okay, dai. Meglio, adesso è meglio che ce ne stiamo rintanati. Genio, ieri ho provato a mettere a posto il palmare che mi avevi dato con l'Uranus, no? Praticamente ne ho sconciato tutti i collegamenti, praticamente li ho risistemati tutti dall'inizio alla fine, comprese le connessioni del 4 spinotti, lo collego, va l'importante, però il microfono non scia. Morale della favola, ho scoperto che la capsula microfonica dinamica è interrotta, ecco perché il microfono non funzionava. Adesso stai su pure a me, la cosa del genere, ho guardato il microfono, anzi no, lo stavo usando, quello del 3009, tutto a posto, poi non mi ricordo che stava difettando. Lo apro, tutto quanto, controllo bene, c'è qualche saldatura fatta male, lo ripiazzo tutto quanto, buono, ha più funzionato, più o meno, adesso deve funzionare, e c'era la capsula interrotta. Ha bruciato la capsula, buongiorno Gianni. Ciao Antonio, no, no, non ho bruciato niente, no, è che già quel microfono non andava da prima, ho misurato col tester la capsula è proprio no, completamente morta. Vabbè, era giusto un'informazione di servizio, là, non volevo monopolizzare. Avanti genio. Buonasera Rubro. Già, noi ci stiamo andando a fuoco. Ciao Gianni. Ciao Rubro. Luca, a me non mi ha capito niente. Gianni, ci siamo andati a fuoco. Tanto di bitocchi, la mazza di varia. Ma ciao, scusa. scusa, non ti ho mandato una foto che c'è scritto doppio room su WhatsApp. Perché dici di no? Vabbè, te la rimando, aspetta. Non calpestate, viva una volta. Più profe, sto dicendo, ti ho mandato una foto. Ehi, sto dicendo, non calpestate, viva una volta. Non spingete, non spingete. Senza toppare. Forse sarò io l'unico che sto spingendo. Perché sto provando questo apparecchio per se va bene. E la massa di nevaria. Guarda adesso già. Sembra modulate. Perché io sono basso basso, fate da bravi, e mi sono modulate. Ti sto sovramodulando. Tutti e due insieme sono arrivato, lo sa. Hai visto, boh. Io già non ti posso sovramodularlo. Ma non sono il cappotto, sono il cappotto. Già, te ne da caso il giubbotto, no? Cos'è? Un cappotto, È un montone, un giubbotto di montone. Li dati il gas, Ughis, pure in moto andava Ughis, no già. Cazzo, ma è una coperta, è un brito. Che sono santo, è bagaggio. Costa un po'. Non vuoi te lo regalo uno io, Luca, che non mi sta. No, io non ne uso qua, no. Cioè, questo giubbotto mi sono preso io, ho qualche anno già, quello 18, ha un caldo, guarda, è la fine del mondo. Io ce l'ho un montone in affatto, no, non mi sta più, l'avevo comprato a tempio. L'ho comprato a tempio, ribelle, però non mi sta più, c'ha la pelliccia dentro, poi è una bigola, però non mi sta più, ce l'ho voluto regalare. Ma le zampe pure c'ha? Ehi, tutto c'ha. La coda? La coda me l'ha mangiata. E le orecchie? Nuovo. Le orecchie me le ho succhiate. Vabbè, là, riprendete voi, che sono quasi, dai, quasi pronto. Riprendi i bomboli. Gappa. Ma pure il mio mi scalda parecchio, il mio giubbotto. No, la mia giaccone, no. Non si usa più, sempre dentro l'armadio, non volevo. Gappa di rosmetro. Dobro fare cosa sta dicendo, non spingere così. No. Stavo parlando del microfono che ho trovato la capsula praticamente con il funzionamento interrotto. E qual è? Di quelle rotonde grandi o quelle piccoline? No, è piccola, sembra una capsula di quelle, se ne ricordi, le vecchie cuffie da Walkman che si usavano negli anni 80. È una capsula piccola, dinamica. Niente, ho misurato col test ed è interrotta, ecco perché quel microfono andava. No, di quelle non ne ho io. C'avevo di quelle rotonde, una l'ha volata. Ma una mi sembra che ce l'ho ancora. Da microfono da palmola, microfono normale. Genio! Allora, la modulazione? Buona, bella. Inizia. Bella come sempre. Bella come sempre. Qui Anto racconta a Claudio quando siamo andati in testa d'Italia, ci siamo bussati per vedere a Giuseppe Magia, io ci siamo scappati. Ogni avvento che vera la sera. Ah, mi ha detto sa di salutare a Marina, mi ha detto. Mari, saluta Sara. Chissà ti ricambia, ok. Gappa. Ascolta lui, ma è il prodotto che ha fatto una volta la Marina, non ha fatto più. Prodotto, illuminami, senza incendiarmi. Boh, cos'è che ho assaggiato lì a casa di Marina? Boh, mi conoscevano il cuore, cos'era? No, Marina di cuore non ne fa. Boh, cosa avevi fatto, Mari? La volta che è venuto Claudio qua. Boh, niente, Claudio. No! Dopo il compleanno, cosa avevi fatto tu? Salate forse qua. Inizio a fare sì per quella roba lì, non ne ha fatto più. Sì, ce la facciamo ogni tanto, ieri abbiamo fatto. Sì, forse con l'altro avevamo fatto quella filastro di cose. Allora ieri abbiamo fatto sempre la sfuglia, a tipo pizza, solo che ha messo il forno a 220 gradi e un po' così cancarata. si è seccato un po' il prosciutto, capito? Vabbè, no. Colpa sua sempre. No, troppo alto così il forno, 180 va bene, 170 gradi. No, a 200 vuole, là. C'è scritto. Fateci tubo strano, poi si è gonfiata perché voleva praticamente bucherellata con la forchetta, no? Se non si gonfia, la foglia è così. Vabbè, comunque dai, già non è male, dai, già sei farata. Siamo magnata, avanti, riprendi cara. No, sta buono. Ciao Maria, questo non è buono, va assaggiato, io ce l'ho, ne avevi due o tre tipi. Molto molto buone, buonissime. Avanti, bombolino. Paga la parola, ho fatto un massaggio, giro in occhi, cazzo in tutto. Cazzo, via. E poi, vedo che sta funzionando tutto, perché prima mi dava problemi. Ragazzi, quanto si è sentito al 30? Sì, 9 più 30, sì. Così agganciato, 9 più 30. Ma se ad esempio mi sembra mangiare, magando mai. No, oggi che la ragazza di Luca fa queste tortine salate alla fine del mondo. Sono andato, non ricordo se gli ho messo il compleanno, però io sono andato il giorno dopo. L'ho assaggiata, ma ti dico, era del giorno prima sicuramente, ma era così buona veramente. Ma quando riposano, non so che sono più buone, no? Perché decanta il tutto, la pasta magari diventa più umida, si assorbe tutto, le cose sono più buone. Buona, buona, gappa gappa. No, ma io togliamo sempre col microfono, così giusto per farti capire. Mi piace una modulazione, mi ascolto in cuffia, un bel forte, forte, bella, chiara. Microfono da berire, cazzo, allucinante. Avanti, doppio rompo. E che microfono è, Claudio? Cos'è? Questo è un microfono. Questo è un AMD più 5, però è cablato Kenwood. Fatto sai da chi, non c'è bisogno di farti il nome. Cavo cablato a 8, alimentazione diretta dalla radio, non ha bisogno di batteria, non ha bisogno di niente. Sono tutti chiusi, il microfono è a metà, e il Mickey Gain col processore, il Mickey Gain della radio è a 1,5 col processore inserito. È pari un coso, un MC60 basta. Spinge molto di più del 60, non fu più niente. E se l'aumento lo vedi quanti bomba, no? E il problema è che non distorce, amplifica un bel. È molto bella la modulazione, bella corposa, mi piace. Ma la caps l'ha cambiata di là, io è la stessa. No, non diamo io capsula del microfono, uno solo ne avevo il microfono con la capsula cambiata e l'avevo comprato usato da Gigi Vulcano. Quelli che io ce ne ho un altro di MB più 5 che sul Galaxy ed è originale, questo è originale, mai toccato, mai aperto, né niente. Quella persona lì ha fatto solo il cablaggio Kenwood, quindi ha cambiato il cavo, l'ha cablato Kenwood, niente, non ha fatto altro. C'ha l'alimentazione diretta dalla radio Kenwood, da tutte le radio a 8 volts, lo puoi mettere su qualsiasi radio che abbia il connettore a 8 e lui funziona senza batteria, ma rulla, eh. È buono, così almeno sta a comprare manco batterie. Andare. Dimmi, ma chi interessa, io ho un MB più 4, praticamente levato dalla scatola, mai idratato, non so dallo, non l'ho mai usato, è levato dalla scatola e qua è in perfette condizioni, a chi interessa? Adesso sto usando il 3009, non ve ne siete nemmeno accorti. È meglio che bizzardo, che stai usando il 3009, no, che hai cambiato radio, mi sono accorto, in tutti i baracchini che fai, cosa ne so, cosa intrattene. Però ho visto che hai cambiato tonalità. E questo poi è anche col microfono normale, dai, non è amplificato questo. Ma va bene, amica, va bene, radio 5 è perfetta, è un buon microfono quello. Il baracchino esce con 5 watt, questo qua. 4 watt e mezzo, dai. Vabbè, io sto dando un MB più 4 mai usato, praticamente ancora tu la scatola. Vediamo, a me non serve, Io ho 2 più 5, vabbè, uno è cablato chevolo, l'altro è normale, poi c'ho Tane più 3, il Savelta, c'ho l'MB più 4, ma ne ho dato 6 io di microfoni, ho dato 6 radio basi con tutte e 6 microfoni da tavolo, tutti MB più 4 e MB più 5. Ma e le accette ti funzionano? Sì, sì, anche in questo cablato chevolo funzionano le accette. Allora, ho capito. Anche in questo retrovisore funziona le lancette, non stai scherzando. Se c'è l'alimentazione nel circuito devono per forza funzionare. Se le lancette non funzionano vuol dire c'è qualche problema. Questo, una volta che inserisci lo spinotto nella radio va in alimentazione come che ci sia la batteria, quindi interviene il circuito di preamplificazione e lo strumento deve funzionare per forza. Che non sei grande oggi, non puoi mettere quell'apparecchio lì? Ma non so fare i collegamenti. Non so fare i collegamenti, capito? In quell'apparecchio, quello che sta usando lui, lascia perdere che se sbagli i bruci finali, ma stai scherzando. Ci vuole un professionista a fare quel lavoro. Come è fatto questo, Come è fatto questo? Questo è fatto da un professionista, fatto, perché prende l'alimentazione, passarla di 8 volt in un circuito a batteria, cioè è un lavoro, ci vuole uno che lo sappia fare, Gianni, bruci la radio, ma stai scherzando, lascialo Gabusano. Io non sto dicendo di farsi il collegamento lui, sto dicendo di tenerlo e metterlo magari in quell'apparecchio, poi troverà qualcuno che glielo fa e che lo sa fare. Ah, beh, ma non farlo lui, no, già, ho rinunciato io, ho rinunciato io perché è molto ma molto pericoloso, parecchio pericoloso. Bisogna eliminare intanto la spirale perché non va bene, è troppo fine, e poi ci vogliono 8 cavi, quindi bisogna prendere un cavo schermato apposta per fare questi lavori come ha fatto me, capito, 8 fili e usare bene, cioè, fatto bene. Quindi il cavo non è spiralato? No, non è più spiralato, non serve a niente quello spiralato, è a 4 V, cosa ne fai? No, spiralato ce ne sono diversi, ce ne sono a 5, ce ne sono a 7, ma è da cosa, da Fusaro, sino a poco tempo fa ce l'aveva sino a 6 fili. Cagati va via Fusaro, cagati va via, questo è un professional, un cavo professionale schermato, se tu vedi come è fatto dentro, è fatto diversamente, poi si è deciso lui di fare una cosa del genere, vuol dire che l'ha fatto così, quelli spiralati non sono schermati, questo c'è tutta la cosa in plastica all'interno, la carta stagnola tutta all'interno, è un cavo schermato buono, costa anche perché un pezzo da, non mi ricordo se ne avevo preso, un pezzo da un metro o un pezzo da 2 metri mi pare più barato, poi di Dio. Vabbè, ho un cavo particolare, quello lì, senza ombra di dubbio. Ma io da Fusaro ne ho trovato uno di cavo, sarà minimo, ho già di bossi di silhouette, tipo ne arrivi, sarà minimo 2 metri, questo cavo qua, per il microfono. E così quando lo uso nel Royce, che mi cocco, mi arriva, mi posso girare nel letto tutto gatto. Ho capito. No, beh, io non c'ho quel problema. Questo è da c'era un metro neanche. Mio Roberto in VHF chiamandomi. Comunque è un bel lavoro, ma veramente bello. Vabbè, il microfono nuovo, io l'avevo comprato nuovo, dato e fatto questa cosa, capito? Però funziona bene. Avanti Antonio. Ehi, AK, sono ritornato agli origini. Sì, io sto scendo con 5 watt, con 4 watt e mezzo. Già, va bene, già. Questo è il 3009, Antu, è usato pochissimo, Lo uso ogni tanto per vedere se funziona, ma è nuovo, proprio di zecca. Gappa, no, va benissimo qua, che cavolo, ma fa contento, va bene. E di segnale come arriva? Questo c'ha 5 watt. 9,20 radio 5. 9,15 ha messo già. Quanto? 9 e 15, tanto quanto Antonio sei vicino, a me sei abbastanza lontano. Ottimo segnale, 9 più 15 arrivi. E il mio segnale da te com'è? Oh, là. Da me? Sì, eia. Da me sei 8 o quasi 9. Io non so come ti sto arrivando lì. Se prova già che mi sono un attimino alzato, Maria 9 e 20 a me. Te lo dico. Prova, guarda, va bene. Un cazzo, 9.30 sì. Anche qua, in solito, la 9.15 direttamente a 9 più 30 Gianni. Cosa hai detto oggi che ti hanno calpestato? E oggi? Genio. E oggi? Sto uscendo. Ah, sono arrivato a città. Gappa gappa. Stai uscendo, sapete se si è allontanati. E da te come ti arrivo già? Bene, anche io. Cappa. Arrivate più bene, Tony era una bomba, mi sa radio. Una bomba, G. Io nel mio piccolo mi difendo. E a voglia ti difendi. Io anche pensavo che la tua fosse con il radiale l'antenna, invece non è altro. No, era Ringo. Pensavo che avessi il radiale, non me lo ricordavo che era senza radiale. Tanto io conservati i soldi che quest'estate mettiamo la Smart Tech lì. E anche lui è un bel lavoro, perché non hai radiali, capito? Lo stub dritto a 2,75 e il direttore è puntato verso Sassari. Ho detto una bomba, esci da anch'io. Una bomba, c'hai anche più ricezione perché è una 7 ottavi. Una bomba, esci da anch'io. Io conservati i soldi. Ma non hai detto che non me la metta a me. Ci sto pensando l'altro giorno. Leggerami Anto, 7 kg e me, e poi tu lì va bene quella, perché anche se 8,50 m lì è bassa, capito? Non è in un palazzone, quindi fai un figurone che si antenna in chili. Ho visto quella di Carlo, la paura, minchia quanto è alta. Ah, sì, claro, ma ti arriva bene adesso, Cosa, Lu? Ho detto che Roberto ci arriva bene di là. Beh, hai buttato l'antenna nuova. Ecco, arriva benissimo. Bene, bene, bene. Però ho notato che a casa non arrivi bene, tu lo sai. Qua sì, qua arrivi a bomba, ma a casa no. Non lo so, io ho l'antenna in giardino, appoggiata al muretto del giardino, mica è sopra il tubo l'antenna. Ah, ecco. Ah, comunque arriva benissimo, una bella radio, bella spinta. Io facevo fatica ad ascoltarlo. No, io non faccio niente, non mi metto l'inferno a fare queste cose, c'ho già l'esperienza dell'altra casa, mi ero messo a fare i lavori delle direttive d'inverno, questo sono rimasto a metà, l'ho dovuto riprendere d'estate, no, assolutamente no, quest'estate mi metto e faccio le cose fatte bene. Sì, comunque io devo prendere le misure e mettere le staffe nuove, dai. Guarda, simili ci sono più avanti di casa mia, che c'è un'antenna TV, così le voglio. Poi quando sarà, magari lo chiama Roberto. Faccio fare un sacco, così le vede, poi bisogna prendere la misura. Io ce l'avevo a piastra lo stesso. Poi avevo quelle tricoli che erano attaccate a Carbonazzi, che aveva messo Fabrizio, con i tassilli a barra filettata da 14. Quelle li ho tolte, ho fatte fuori da 14 qua, ho preso gli altri due pezzi di barre filettate, tassello chimico, vai dentro, e poi dirà a Garratrice, buon chili, domani esci. Ma purtroppo io si può fare che sono... c'ha quei forati larghi, non so come si chiamano, quelli larghi. Sarà allora 30 centimetri, una ventina, non lo so. No, io il muro di recinzione è un po' blocchetti da 30, quindi non voglio tenere. Via. Anda vecchio, Gianni, poi doppio room ci sei. Ehi Alu, con 3.900 sto uscendo, come sta andando? Tu Crizia, la musue. Anda bene, a chi tocca avanti. No, qua c'è una bomba, sì già. Ma siamo vicini noi. Già lo so. Non pensa che noi siano, in Sant'Anna ci fosse un bel me, soprattutto quando più spinge più esce forte. Circa così, sicuramente è molto meglio di quella là. E anche in certe cose è meglio della mantova, perché la parte di giù c'era tutta in acciaio, invece la mantova si arrugginiva tutta la parte dove si attaccava il piede, lì c'era in acciaio dove vanno i cosi radiali e praticamente dove incastrare il cubo, là. Quella che incastrare il cubo è tutto quanto in acciaio. Ma come fa a essere in acciaio quel pezzo? Ma va innestato dentro il tubo e a cavallotti? C'è la piastra. È come la mantova, è incastrato nel tubo, va. Come fa a essere acciaio e poi alluminio, Gianni? Non voglio capire. Non si può fare una cosa del genere. E chi l'ha detto che non si può fare? È così. Basta venire a vederlo, non c'è problema. Acciaio? Vabbè, no, non c'è bisogno. Mi fa vedere una foto, poi già vado a vederla io le caratteristiche di quell'antenna, perché se a cavallotti come la Smart Tech c'ha la piastra in acciaio, la piastra in acciaio, poi i cavallotti che entrano dentro. Allora, e poi c'hai due isolatori che isolano l'antenna verticale. Ma se tu c'hai un pezzo in acciaio, ok, poi tutto l'altro pezzo è innesto, tutto l'altro tubo in alluminio, non riesco a capire come hanno fatto a tarare questa antenna. Vuol dire che ci sono degli ingegneri che sanno fare queste cose, ci posso chiedere a Franco, me l'abbiamo piazzata insieme a Franco, chiedere a lui. E vabbè, Franco piglia la plastica per lo gassone. Ah, quasi di te. Franco riconosce il materiale. Già, li conosco anche io, quello lì è l'acciaio, non è alluminio, è in acciaio, la parte di giù è in acciaio, quella che incastra nel tubo, poi parte in alluminio. E da quanto è questo pezzo? Sto scherzando, io lo so che riconosce i materiali, Franco. E da quanto è questo pezzo? Non so per capire, sto facendo i calcoli, cioè l'innesto che va dentro il tubo, no, che poi c'ha gli stessi agganci della mantova, quei due cavallotti che si avvitano con la chiave da 13. No, è tutto diverso, tutto un'altra cosa. E si avvitano, ci sono i bulloni passanti con i dadi, eccetera, eccetera. Vabbè, voglio vedere l'antenna, adesso vado a vedermela su internet. Perché come materiali la mantova è la più robusta che c'è di quelle 5 ottavi, questa io non la conosco, non lo so, c'è anche vado a vedere come è fatta, non lo so, la mia è fatta in una maniera particolare, infatti l'ho assemblata io a Carlo perché c'ha delle misure particolari, c'ha gli isolatori, c'ha il balum, ma un altro tipo di antenna, vabbè, è fatto diversamente, poi c'ha il direttore che fa da direttivo praticamente, quindi è diverso. Va bene. Io ho provato in 10 metri poco fa con questa stazionaria 28500 1 1 1 1, quindi da 0 a 28 MHz 1 e 1. E dipende quanti watt li dai, che aumentano le stazionarie, secondo quanti watt li dai aumenta. No. Allora tu sappi una cosa, che quando io attacco l'amplificatore, se c'è 1 e 1 me le porta al 0, non aumentano, le stazionarie devono abbassare, te l'ho già detto una volta. Se le stazionarie aumentano, quando tu aumenti la potenza vuol dire che c'è disaccordo. Le stazionarie devono rimanere stabili dal momento in cui tu attacchi l'amplificatore, tu vieni qua, io te lo dimostro perché l'amplificatore ne ho 3, e su tutte e 3 io ti faccio la stessa cosa con lo strumento della DAIVA, ok? Oppure devono addirittura abbassare. Se l'accordo è giusto devono anche abbassare, non aumentare. Te l'ho già spiegato una volta. Tu hai disaccordo perché hai perdita sul cavo, nel senso che se tu hai 300 watt nello strumento di giù, in antenna te ne stanno arrivando 200, 100 watt tu li perdi. Se questo qui è un cavo che abbassa questi watt, io sto usando l'H100. Ah, l'hai cambiato? cambiato, non c'è più 58. Ok, allora va bene, allora va bene. Però già ricordati che se tu aumenti la potenza e i watt devono, le stazioni devono rimanere stabili, perché sono un'altra cosa. Non tu aumenti i watt e aumentano anche le stazionarie. Non esiste una cosa del genere. Io l'ho visto a casa di Antonio. Antonio attacca l'amplificatore, c'ha 1 e 1 sullo strumento di stazionaria, attacca l'amplificatore e rimangono 1 e 1, ma lo sai perché? Perché c'ha 6 metri di cavo, Barò. Ma se l'accordo anche io, da 1 e 1 a 1 e 2, fammi, non è che sia chissà che cosa. Massimo è 1 e 2 in tutti i canali, questa antenna va benissimo, è tarata a 100. Quando l'abbiamo piazzata non era tarata per niente, l'abbiamo a 1 e 4, mi sono assustato. Poi tarandoli c'è una specie di rondellina che cammina sulla molla, quella lì basta mollarla e far andare avanti e indietro, così si tara l'antenna. Sì, sì, è tipo la manta, ma c'è la spirale, sali, scendi, sì, il sistema è quello delle verticali. Io anziché avere mollettine e girandole, c'ho direttamente lo tubo, il tubo che tira su. Praticamente la J-Pol che è attaccata, le due antenne che sono attaccate, perché sono due antenne, questa non è una, sono due antenne, e si tira sullo stub come stai tirando, come stai innestando lo stilo praticamente della mantola, capito? C'è una misura, c'è la vite, stringe e poi la fascetta, no, è fatta bene questa, sì, c'è sul caldo Carlo. Va bene, a chi tocca? A Luca. Luca deve essere sta mangiando la torta salata di Marina. Ma la devi tirare da tutti e due gli stub, da quella dell'antenna piccola e quella dell'antenna grande, oppure da uno solo? No, l'antenna grande, lo stub grande e lo stilo grande, quello lo metti, lo metti, a parte non puoi sbagliare, perché a differenza della mantova, se tu innesti non vai mai a una misura, c'è la fascetta e stringi, no? Lì ci sono dei forellini come precisione, tu innesti, c'è il forellino con forellino e c'è la vite passante e stringi, poi c'è la fascetta per stringere anche, c'è vite e fascetta, vite e fascetta, quindi non puoi sbagliare, poi ci sono le misure obbligate, ok? Invece la mantova misura i connettori, entri un po' più alta, un po' più bassa, infatti molte volte sbagliamo anche lì, capito? Questa non c'è da sbagliare. E poi c'è l'altra antenna accoppiata che ha due barre in acciaio con due isolatori in teflon, dove il PL, tu ce l'hai in verticale, questa è in orizzontale, è incassato dentro il teflon, quindi non entrerà mai acqua, non diventerà mai niente, lo entri dentro e stringi. Poi lo stub che è attaccato, quando ti danno l'antenna è tutto a zero lo stub, e va da zero sino a 2,75 di altezza, capito? Sino a 2,75 di altezza. Devi regolare nella misura che ti dà, ma non service stazionale io ce l'ho a 0,80, 0,80, quindi neanche uno di stazionarie, dal canale 1 al canale 80, se invece vado oltre il canale 80 segna 1 e 1. E il sistema è lo stesso, anche nella mia ci sono i buchi che devono combaciare e mettere dei viti, sia negli stili che anche nei radiali, sono fatti così, c'hanno i buchi e devono combaciare e c'è la misura obbligatoria. Sì, ma è la miglior cosa, perché almeno c'è una misura fatta come deve essere il manual service, come è fatta la fabbrica, capito? Invece con la mantova, vedete come si fanno, si entra, a volte perdi mezzo centimetro lì, mezzo centimetro là, ravvini, ti hai bruciato la lunghezza dell'antenna giusta che deve essere, e non hai più quella resa che devi avere, capito? Infatti io nella mia, quando l'avevo piazzata qua, la mantova, l'ho messa per terra, ho preso il manual series che ce l'ho ancora, ho guardato la misura esatta di quanto deve essere da punta a punta, dall'isolatore alla punta, e l'ho fatta la stessa misura precisa, identica, senza perdere manco un millimetro. Avanti Eugenio. Eugenio se ne è andato, non risponde più. No, ho detto, forse un attimo è arrivata gente, non so, vai Ma pure questa ringora con c'erano le viti obbligatorie per... perché doveva essere montata, invece la nuova non è così, deve essere montata obbligatoriamente in quei buchi lì e basta, è fatta così, è fatta. Beh, si conferma, si conferma, le antenne serie sono così oggi, perché se perdi, inizi a perdere un millimetro sul primo tubo, un altro millimetro sull'altro, un altro millimetro sull'altro, così hai messo 2-3 centimetri e l'antenna non ha più la resa che deve avere, capito? Scappa, ma io di questa sono contento, la verità, ne ho un'altra ma non mi piace. Non mi piace niente. Vabbè, questa è una bella antenna. Questa è una bella antenna, ok. Adesso questa ha lavorato oggi, questa è il 430, la 30 è entrata in funzione, adesso passiamo con la, col 140 a farla andare un po', dai. Riprendi già che cambio radio. Cappa, avanti Gianni! Sì, anche io stavo cambiando radio. Vai. Eccomi qua. Questo che è quello più piccolo. Mia, questo è quello più piccolo. Ah, dai che ci becca. Sì, anche sono io che le porto bene questa radio, è chiaro che c'è bene, alla grande, alla voglia. Anche io ho cambiato radio. Cappa, ma cosa si trattende già? Adesso sono col Galaxy. Col Galaxy già va bene già. Ciao raga, vabbè. Io l'ho acceso anche il... perché ero da un bel che non l'accendevo già. Scappa, non avevo capito l'ultimo passaggio, cos'è acceso ieri? Sicuramente da chi me l'ha venduto per usare col lineare, quindi non l'ho mai alzato, dai. No, già è buono. No, questo qua esce bene, dai. Questo qua già va bene. Poi il Galaxy per me è la mia chicca più finita. Ce l'ho avuto anche io, ce l'ho avuto un periodo. E lo so anche di chi era. Cappa, l'ha volata a me. Perché l'hai dato, ma come? Perché in quel periodo non avevo più posto. Ragazzi, cioè, non lo dovevi dare, eravamo buono. Non dimmi un buon quei nobili. Ma vabbè, già ci sta volendo. Su. Ah, vabbè, ma... Ma meglio questa, dai, del Galaxy. Sì. No, va bene anche il Galaxy, io. Vabbè, io basi ne ho due, tre. C'ho tre basi e poi c'ho due veicolari, dai. Due, tre veicolari. Cappa. Oh, già va bene, cara. No, va benissimo anche il Galaxy, però non, in quel periodo poi non stavo... stavo usando poco e non avevo posto lo pimento di fattore di gas duro, l'ho fatto. Che pare l'avevo bevuto io quello lì. Raga. E anche te l'ha fatto. Già lo so. L'avevo dato io, era buono, era nuovo, quello era arrivato dal continente addirittura. Era di lusso, tutto, era nuovo, nuovo, tutto, non c'era un grafo, una consumazione, niente. Quello lì mi pare che però erano stati rifatti finale. Non lo so se sono stati fatti dopo, quando c'era lui o no? No, era stato portato da quella persona là perché stava partendo ultimamente in più. No. E oggi però. No, il gas non li ho mai cambiato finali, mai. L'ho fatto solo.